Graziano. Polpo 1, polpo 2, chi è? Avanti, fischio, chi è? Ulala. Ui, il morto, ebbe. Ebbe, signor vivo. Ebbe, usciabuhu. Usciabuhu. Cosa stai facendo? Riccardo. Ah? Sta riposando le membra. Sto guardando la televisione, giusto per passare l'ora. Tipo non c'è niente, c'è la solita cagata di Barbarusso, i tipi che rimangono senza soldi perché si sbagassano. E poi pretendono la pensione. No, io non so neanche guardare, io mi sto guardando quello a Italia 2, quello di Alf e Franz. E quindi ti sei Alf Franz. Cosa cazzo hai combinato? Nulla. Mi sono svegliato a mezzogiorno stamattina, più che altro. Però c'era un po' di freschetto, non sono neanche uscito. Non ho capito. Tu usci tu sì, come andava? Sono salito in tram alle 10:30 e poi a mezzogiorno e mezza me ne sono andato. Hai fatto bene. No, io non c'ho, no, sono venuto stamattina. Sono fatto la doccia, poi sono stato a mezzodì quasi, poi mi sono fatto la doccia, poi sono mi stavo guardando un po' di TV e basta. Ma c'è un po' di fresco, ragazzi, cioè, mi stavo congelando stamattina. Lo so. E anche io stamattina ho fatto la doccia, la barba, e poi sono salito la nicchia e poi dopo pranzo mi sono un po' sdraiato. Hai fatto bene, almeno ti sei riposato un pochettino, tanto mi. Cosa fai a casa? Hai girato le palle. Uiuia. Tanto c'è il vento, cazzo. Cazzo. Beh, questo vento cazzo sta rompendo le scatole. C'è il maestrale, c'è, è un casino. Adesso domani mattina per la mia alzo vado a ritirarmi il foglio ISE e così sono a posto. E lo consegno. E adesso non so, domani mattina devo pulire questi cazzo di vetri. Non ti ho capito, sei arrivato bascio. Ho detto che devo pulire questi vetri, Antonio. Poi di un punto buono. Devo pulire i vetri di dove della stanza mia, capito? Non ti ho capito tu, po'. Non mi senti? Adesso sì, rimani dove sei. Ho detto che devo pulire i vetri qua, quella vetrata che c'è, capito? E i nipoti non li pulisci fuori. Se li pulisci dentro è un conto, fuori è un casino, glielo sai. Ma perché non ti prendi un coso di quegli affari della, che si usa in macchina, una spugna con l'istruzione per la pera di acqua con lo struzzino e poi prendi e asciughi. Anche perché tu nel punto dove sei non è che ti puoi mettere sopra il tetto a pulirti i vetri, no? Non saranno. E appunto per quello. È tutto quello che posso pulire, poi il resto, non lo so. Qui sono piano piano dentro e fai prima, fuori se la piglia in culo. Altro non puoi fare. Lo so. Adesso vediamo. Gava gava sa. Ui uia. Non c'è nulla in giro. Ui uia. La domenica è proprio una noia, cazzo. La domenica è fatta solo per riposare e per non sentire il rompiscatoli. Ah beh, che quello è vero. Ah, che quello è vero. Hai cosa cazzo vuoi qua? Ah, beh, quello sì. Almeno ti riposi la domenica. Ogni tanto. Sì. E oggi anche la giornata delle palme. Quest'anno non siamo venuti a chiedermi soldi e portarmi le palme qua quest'anno. Di solito passavano. Io ne ho trovato sul tram, ne ho trovato tre, certo, e me l'ho messo in tasca. Hai fatto bene. Questa settimana è stata prima di Pasqua, già lo sai. Quindi, tra una cosa e l'altra, di tutto acciappi giro. E adesso organizzano perché sta un po'. È Pasqua, poi c'è Pasquetta, tutti quanti puri, e capito che ne vanno a festeggiare la Pasquetta puri. Ma vorrei il cazzo che ne scendesse l'aria. No, mi pare che fa caldo la Pasquetta. Se non ho visto male, 33 gradi dovrebbero fare. Ma che ne scende a cazzo il diluvio, cazzo, a meno che ci se ne vanno tutti quanti con l'ora mala. Poveracci, se uno vuole andare a far tavola o a cosa, in mezzo alle vespe. La Pasquetta, della pila buona. Sì, a parte se comincia questo caldo di colpo, le vedi vespe in giro, ti rifugi. Per carità. E purtroppo è così. Questa Pasquetta, una volta solo sono uscito fuori, eravamo andati a cosa, Alghero, grazie a un po' di cose, di tutto vero, andate a cucinare la carne o il pesce, sempre le veste appresso va lì, dovevi scegliere o tappare il piatto, aspettare che se andavano a verso, anche in campagna addirittura, quando scendevo con babbo, con mamma, era una cosa allucinante. Non so, adesso è il periodo. Se ti pungi una vespa da poi so cavoli amari. Se ti pungi una, almeno due vespe, se ti pungi in due devi andare veloce a cosa, devi andare pronto soccorso. Lo so. Ui, per carità. No, ma detto dice, ma io ci vieni da tua nipote, che fa, deve fare la festa per il compleanno della bambina, no? Aspetta, no, adesso lascia perdere, me ne rimango a casa. Ho capito, dimmi. Ho detto che oggi sta facendo la festa per la figlia di mia nipote, e dunque festeggia oggi, no? Dice, ci vieni con me? No, ho detto lascia perdere, rimango a casa. Non sei stabile come segnale, ti stai abbassando come ti muovi. Guarda, mi senti adesso, 1, 2, 3, 4. Adesso sì. Ho detto, dice mia madre, ci vieni, andiamo a Antonella, perché c'è il compleanno della bambina, della figlia, no? E dunque a festeggiare. Ho detto, ma cosa cazzo festeggio? E ne rimango a casa. Sì, fai bene, almeno ti guardi un po' di TV stasera. Adesso se c'è qualcuno a baracchino, parli a baracchino. Il PMR. Ui, per carità. A meno che non te pigli il tram e te scendi da tuo fratello stasera, non ho detto. Dalle 6:30 fino alle 7:30. Oh, non ho giocato. Non ho voglia. E io ci vado domani. Dopo che scendo lì dalla cosa, dal monte, me lo faccio a piedi. E poi piglio la 5 salendo. Cazzo, fa un giro strano, fa. Poi scendo da tuo fratello, bevo una birra e me la saco a casa. Pranzo, già c'ho tutto, non c'ho niente da comprare, meno male. Ho capito. Che cosa hai detto? Ti sei abbasciato di colpo. Giù. Antonello. Dimmi tutto. Cazzo, non mi funziona più quell'antenna là. Quale? La grande? Quella che avevi dato tu. E come mai? Quella hai tirato il collo, Gli ho fatto il coso del PL, gli ho saldato il PL nuovo, il PL, gliel'ho tagliato, no? E non funziona. Sì, bisogna metterla nel paletto con l'antenna lì, bisogna metterla, per forza. se migliora il tempo, amico, la prossima settimana scendiamo tutto a terra e facciamo quel lavoro, almeno ti piace l'antenna come si deve. Vabbè. No, adesso mi accendo il telefonino, mi cerco un paio di giochi e mi diverto così. In che senso ti diverti così? Hai capito? No, dimmi. Ho detto che mi accendo il telefonino, mi cerco un paio di giochi e gioco con quello. Sì. Un paio di giochi, cioè per questo che accendi il roba sul telefonino. Anche, non lo so, siti strani, basta girare un pochettino. Sì, vabbè, dai. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, no, dopo cena, dai. Sì, d'accordo, dopo cena, ciao. Ciao, ciao.